entrare, esatto. Ah, oggi si vede il rumore già lì, se la portate. Io ti l'ho chiesto. Allora, però se io sto salutando, cioè che è cosa, è scemo. Infatti, passano guagliate, passano una riportanza e vedrai che ti passano vigliando tu. È un imbecillotto, ma oggi c'è per il canale, che se va, va a macchine va. Hai sbagliato, cazzo! Sicuro un fa uno che faccia e uno rimane zio. Sì, poi mi addosso, faccia la Maria. Vabbè, sei un po' che sbagliato. Ehi, cosa avete avuto così da lui? Thank you. Bene, veda, a noi ci fa sempre piacere, se vuole entrare bene, se no pazienza. No, stavo bene. Ma parolo. Ah, non sarà che se ti può sapere scendere, no, per fare. Oh no, poi che sono. Ah, gatta gatta, vedo già. Ti credi che io, ma Se non ne bevo qualcosa adesso, tanto sono a casa, che mi ne appunti. Infatti, non sei in casa. Se al limite vedi che vedi, ti tocca un poco. E tutto andrà bene. Guarda, un anno ho preso un fumante, mamma mia, l'uggeggio in capo. 23 canali, ciao Bruno, portate, siamo all'antenna tipo televisione con le due vitre in alta, capito? Allora tutto come si dice, materiale di ferro, capito? Roma di ferro, Pisana e Cosa Amara, Uia, Macare Dai. Allora, poi ho iniziato quello con la valigetta che c'era il microfonino e compagnia bella. E poi ho iniziato a comprarmi l'apparato della BM, e poi tutta la mia minestra, e tu. Uia. Sempre di migliorare, dai. Vabbè, quello sì, quello senza ombra di dubbio, si cerca sempre di migliorare. Ma un grido già. Gava, già va bene, già lo grido. Vabbè. Cerca sempre di andare avanti, si cerca. Vabbè, se è possibile sì, se è possibile sì, bisogna andare avanti, mai indietro. Avaroccio. Disturbano molto, non ho capito che disturbano le televisioni. Ah, ma posso dire, di una volta, no. Vanno molto meglio quelli lì. Guarda, guarda. Non vuole me. Dove? Vuole sì. Finale. Dove? È un buon finale, un buon amplificatore quello. Però non vuoi molta roba così. Andiamo un po' i soldini, vediamo un po' se riusciamo a prendere. Perché non ti fa saturare, se gli dai i batti giusti non ti fa saturare. Come? Se dai la potenza giusta non ti fa saturare. Ah, ho capito. Dai, il duro è logico che andi male, però se gliela dai giusta, intorno a 9 tratti così, anche 5, che è successo una meraviglia. Va bene. Naturalmente sono classificati migliori come piccoli amplificatori. Schiappacciata. Ma quello che c'è tu è uguale a quello che mi stai dicendo? Non ce l'ho qua. Ma quello che usi da motocarro, stai dicendo? No, non ne uso io, no. Ah, non ne usi? Ne uso, no. Ho capito. Cose le migliorisce, dai. Ma qua non lo posso usare io perché altrimenti rompere le scatole a tutti. Va bene, infatti sì, hai ragione. Caro, gatta, gatta. Ma tu? Tu? Provo a chiedere, quanta centimetri ce ne vogliono di filo per l'antenna della BM? Perché mi sembra che ho sentito che ce ne volevo 5 metri e mezzo di sempre. Non so, no. Non me la ricordo la misura. Devi chiederlo a papà a vedere com'è. Ecco, attaccata. Non mi ascolti, perché? Perché non mi ascolti? Siete nuovi me. Non mi ascolti. Dove sei? Tu. Perché non mi ascolti? Sei fuori? Vai sull'alba, alza 19. No, ti ascolta già, Parchetto. No, non mi ascolti, perché? Tu mi ascolti, Anto? Chi è Anto? Antonio? Tu? Chi è che sta parlando? Sta parlando, ma no, è fuori. Chi sta parlando? Centrato, vai. fuori frequenza, eh? Era fuori frequenza, sì. Ti appagava. Giusti apparecchi col fine a corsa bisogna fare. stranissimo proprio. C'è un po' il microfono che vuole l'altra, un po' di cosa, è stato tempo fermo, dai. Sta per una modulazione bellissima. Ma che come arrivo lì da te adesso? Ah, perfetto, perfetto, buon perfetto accento la radio, è bellissima. Allora, vediamo se riusciamo a sentire Rondinella, avanti. Rondinella, sì, vieni avanti, per i saluti a Bertano. Negativo per qua, non deve essere che ha chiuso. E questo passaggio non sei uscito per fare. Adesso scendo, so. Adesso sì. Dai, il CPT è un po' vuole pulito, dai. Parogio, è pulito adesso la radio. Tanto tempo senza usare, molti mesi ferma. Fatta. Vado pulita piazzata. Comunque, Giannardo, va bene al centro, dai. Confermo a tutti. Ma che sta facendo? Già va bene, so che va e non va. Quello già si può risolvere, dai. E già va un po' di punto, dai. Già si può risolvere tutto, dai. Benissimo. Congre. tardi qua. Questo il microfono battaglio sta usando. No, il microfono normale pure. Se adesso è amplificato, tutto normale. Ah, sta uscendo bene. Confermi a tu. E questo, con questo devi operare normale, non usare gli amplificati, perché c'è già di suo. Questo è tutto così, clonk. Sempre un pochettino innescato. dopo già ci può rimediare. Capito, con il microfono lì perché faccia così. Chiedo, noi a tu, già siamo qua. Se ci senta. Sì, che ci sono. Dove siamo di punto, di avrà, vai. Niente di. Niente di particolare. Scoppiano, ma non servono come è come mi ha visto, sono molto migliore. Uno spende qualche cosettina in più, però so cosa succede. Vabbè, in effetti se ne spende qualcosina in più, il prodotto dovrebbe essere molto migliore. Sono sempre stati migliori, sono sempre stati. Cattarocci. Tutto, la differenza è molta, perché quella là è più, cioè, più morbida, e questi qua sono duri, proprio fatti bene, come devono essere fatti. Invece chi dice un po' di più, perché c'è la stessa grossezza. Lo so, ma deve essere la polvere è diversa, Beh, anche il materiale. Allora, in effetti è vero. Diverso materiale. Lo vedo. Però già lo credo. Ah, e beh. Esci una domanda che si cade, esci stato facendo. Allora, le fanno bene. Sì, la credo bene, le fanno bene a Napoli. Sono il numero di uno, non ce n'è per nessuno. Di tutti i maneri, soprattutto i siciliani si sente forte. sì, sì, a poppa, già la pendolina. Mi senti. Avrà la cantella buona, no? Si presume. Maggio bisogna aspettare. Va bene. Questo maggio bisogna aspettare. Se Dio vuole. Io saremo qua, li ascolteremo e cerchiamo di entrare e parlarci pure. Va la gara. Parrocchio. Va parrocchio. Parrocchio e poi tappa. Dopo il tanto freddo lo vai a esplodere. E tu hai anche un bastardo, dici? Ti sta mettendo la bolla, dici? Ui, io farò un po' la cassa del microfono. Ma voi schiacci la portante, apri il portante, la portante che ti butti, mi senti, sono carino. Ui, ui, ui. Oh, bisogna farlo con il microfono vecchio. Beh, normale, la cassa di un microfono vecchio, capito? C'era un grillo. Ah, quella qua è a fare un microfono nuovo, lui. Se aveva avuto una tua tecnica, già quella l'ho fatto io. Quello bisogna farlo. Ah, sì, se avevi avuto un uguale, allora io lo posso via. L'avevo fatto, per lui, la moppetta avrebbe, l'avevo fatto esplodere. Pure mi riesci a mettere a mulla. Sì, ma che? Se ne sei sentito che mi hai uscito al microfono. Non vuol dire più bene. Non vuol dire più, e pure lo faccio andare. Ma no. Noi a Santa Dulce siamo, vai, un buco a misura. Tu vai, se sa che hai potrebbe, va, se non capo, va bene. Come vuol dire, e se mi trovo a 2000 e un quinto. Va. Allora, non è stato nessuno, no? No, no, assolutamente. E beh, non è che entra in sì, no. Beh, non crediamo che sia che poi c'entrava per saluti. E sono tutti in compagnia, sono. Beh, è pagata. Io ho preso qualcuno da entra, tu. No. Posso. L'anno scorso, si è detto che non si sente, ho parlato con una persona di questo periodo. La pagata. Non ho il tempo che non accende, ma sarà quasi per entrare. La carta. Io accendo solo Natale. L'anno scorso c'era due persone sono entrate, poi una che ha dato gli auguri di Natale, e l'altro è entrato, l'altro entrava un po' sempre, ci abbiamo fatto la chiacchierata, dai. Beh, capaloccio, già, va bene. Bene, lo per il giorno di Capodanno. Ah, lei fa il giorno di Capodanno. Adesso non mi ricordo bene se è a Natale o Capodanno, forse tutti e due giorni. Ah, va, va, va. Torno bene, eh? Va bene. Ricordo. Serata fino alla mezzanotte. Noi aspettiamo, va. Fino a mezzanotte, mezzanotte e cinque, mezzanotte e quattro, aspettiamo voi, siamo nel 31. Auguriamo la buonanotte, buon anno a tutto e ci tocchiamo. Chi è lo stato anche? Ah, ho detto, io aspetto fino a mezzanotte e quattro, mezzanotte e quindici, se non è stato nessuno, faccio il ciccio, l'angolo, tutti i salutoni, e messo in cocco. Vabbè, sono problemi, appena che arriva l'ora, ci diamo gli auguri. È positivo. Io resto qua, non c'è problema, sono sempre qua. E tu fino a questa ora rimani, vero? Sì, sì, io fino a mezzanotte e quattro sono sempre qua, da sotto, parlo, da sotto e parlo. Allora, c'è problema tu, non ce n'è problema, tanto domani si può riposare anche di più. La parola c'è. Tu mi la cassettina, lo cervo. Un po' di disenteria, per non dire diarrea. Sì, vabbè, ma dipende sempre cosa si mangia, cosa si beve, capisci, tutte queste cose qua. Che cazzo. Sa che mala sorte era. Ah, non si sa, mi ha che può pure a scariche fonte stasera, tu? Di mal di pancia, cose strane. E cavagata. Ah, dice lui a quel punto, prima è stato abbandonato, poi dice che avrei avuto, non so, una bottiglia di birra, e ha incominciato queste corti di coso, ui ui. Morugia ha fatto una cosa, sono andato a prendere, mi sono dimenticato il bicchiere pieno. Cavolo, sono andato, ho fatto un po' di consegne. Ho ritrovato, sono andato a bere, se ne ha giudurrata tutto un tipo. Sicuramente si era piazza di polvere, a Marogno, ho dovuto rimettere il bicchiere. Allora, per quello è... Succede che, dove se dico la polvere, cioè poi ci sono uscito, sono andato a bere, papà via. Vabbè, un po' di polvere, ovvio. Eh sì, è così, Pensavo che era, faceva così. Non lo so. La povera è tanto buona consigliera, no? Per carità. Che l'acqua vuole messa quando si deve mettere. Invece un po' di voce pongo un ripio bicchiere a mano mediata e a rampo. Vabbè, è così. No, che scappa, no, stavo facendo una cosa. Vai qua a casa. Ah, cara brava. Sì, cutiaca di tuo padre. Cosa è qua? Ho detto sì, la cutiaca di tuo padre. No, mia nonna, sto facendo una cosa. Ah, tua nonna, ho capito. Carola. Carola Gassa, Cassarola Gassa. Siamo qua, va.